scusate, non mi sono presentato, io sono il candidato. Lavoratore semplice ed onesto, sono anche laureato. Lo so che tu sei ancora un po' indeciso, te lo leggo nel viso. Potrai guardarmi pure col sorriso, sarà un voto meritato. Non sono stato ancora condannato, perché non ci ho mai provato. Ma sarei stato subito pentito se mi avessero beccato. Lo so che tu non credi a una parola, però mettimi alla prova. Mi ricorderò un'ottima memoria, ma prima fammi deputato. E avrei ancora qualcosa da dire, quindi statemi a sentire, perché non si può patire, questo paese è un porcile. Verità fondamentale per la guerra sindacale del periodo bimestrale, per la crisi che c'è. L'amico di tutti, sono qui per te, basta soltanto che ti fidi di me. E ti offro pure il caffè. Cari cittadini, se ho deciso di candidarmi per questa campagna elettorale, il mio partito è giovane quotato, al programma già stampato. Poche tasse, tanto sesso, se ci scappa un cannone regalato. E per spronare le istituzioni che ci sono adesso. L'alternativa giovane migliore, perché ha voglia di cambiare. Di un reddito pro capite a testa per due persone. Può nascere il futuro dal tuo voto, e c'è chi ha il posto prenotato. E no, e no, così non va assolutamente bene. Però ricordi, un voto per la gente, non restare indifferente. Come chi non crede a niente, che non vince se la prende. Voglio il 16%, con o senza sbarramento, così muoio contento. Non capisco perché. L'amico di tutti, sono qui per te, mi basta soltanto che ti fidi di me. E ti offro pure il caffè. L'amico di tutti, sono qui per te, mi basta soltanto che ti fidi di me. E ti offro pure il caffè. E l'importante... Dai, votatemi. Votatemi. No, vi prego. Lo chiedo per un... Dai, il caffè. No, vi do tutto quello che volete. Una macchina, un 2 euro, per favore. Basta!